ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda. Quinta puntata. Essi andarono. Era di maggio. Il sole del meriggio batteva sulle rocce, intorno alle quali fiorivano le rose di macchia. Le foglie degli alberi scintillavano. Poi il bosco s'aprì e fra due querce, dalle chiome riunite, apparve, come nello sfondo di un arco grandioso, la piramide lontana di Monte Gonare, azzurra sul cielo luminoso. A destra del bosco sorgeva la cima rocciosa sulla quale, nella sua tomba di pietra, riposava il gigante. La salita era difficile, bisognava saltare di roccia in roccia. Paolo precedeva, Annessa seguiva. Più che altro ella desiderava vedere in lontananza il villaggio. D'un tratto si trovò su alcune pietre che oscillavano, le parve di perdere l'equilibrio, diede un grido, Paolo si volse, tornò indietro, la guardò e le porse la mano. Salirono più su, sedettero sulla sporgenza del masso, sotto la roccia del gigante. Ai loro piedi il bosco precipitava come una grandiosa cascata verde, giù, giù, giù, fino alla costa, sul cui giallore le case del villaggio apparivano grigie e nerastre, simili ad un mucchio di brace spente. Valli e montagne, si seguivano fino all'orizzonte. Tutto era verde, giallo, celeste. Gli avvolto in amore stridevano e si inseguivano tra il sole e il vento, nell'aria serena. Annessa e Paolo non scambiarono una parola. Egli era ridiventato triste, ma i suoi occhi ardenti, più che guardare il panorama, fissavano gli avvolto in amore. E improvvisamente si alzò e Annessa lo seguì. Nel punto ove le pietre si muovevano, egli si fermò. Le porse ancora la mano e la guardò. Annessa sentì quello sguardo insolito investirla come una vampa e le parve di cadere e che tutte le rocce precipitassero sotto di lei, ma Paolo la teneva sospesa nel cerchio delle sue braccia e aveva unite le sue alle labbra di lei, in modo che pareva non dovessero staccarsi mai più. «Annessa, Annessa!» chiamò il vecchio asmatico. La sua voce lontana, accompagnata da un gemito, svegliò Annessa dai suoi sogni. Ella si scosse e rientrò in camera. Ziu Zua, assalito da uno dei suoi frequenti accessi di soffocamento, cercava di sollevarsi e non poteva. Le sue mani scarne si agitavano, come lottando penosamente contro un fantasma invisibile. Annessa gli si avvicinò senza troppa premura. Lo sollevò, gli mise un altro cuscino dietro le spalle. A poco, egli riprese a respirare meno penosamente e domandò da bere. E appena poté parlare, ricominciò a imprecare e a lamentarsi. «Tu mi lasci sempre solo», insisteva con voce ansante. «E le zanzare mi pungono, il lume si spegne, che ti si spengano gli occhi. Chiamami prete Virdis almeno, voglio confessarmi. Non voglio morire scomunicato come un moro. Mi date il veleno voi, tutti mi date il veleno voi, per farmi morire lentamente, che siate maledetti voi e che sia maledetto il latte delle vostre madri. Ma arriverà presto il momento che desiderate, su, presto, presto, prestissimo. Mi troverete morto, come un cane. Allora sarete contenti». «Ma state zitto una buona volta», disse Annessa minacciosa. «Vergognatevi di dire queste cose, vecchio ingrato, vecchio cattivo». Egli però continuò a brontolare anche dopo che ella ebbe spento il lume e si fu coricata. Nel buio ella sentiva quella voce ansante e stridente e le pareva che una sega le dividesse il cuore. e una parte di quel cuore si conservava buona e pura e ardeva d'amore, di pietà, di gratitudine, mentre l'altra parte sanguinava e ardeva anch'essa, ma come un tizzo verde di una fiamma livida e puzzolente. La dolcezza e la tristezza dei ricordi erano sparite. Quella voce di fantasma cattivo richiamava la donna alla realtà opprimente. Le pareva di soffrire d'asma anche lei, e invece di compatire il vecchio per ciò che egli soffriva, ripeteva fra sé le imprecazioni e le male parole di lui. Finalmente entrambi si calmarono e si assopirono. Una voce dolce e sonora cantò in lontananza una soave battorina d'amore, poi s'avvicinò, risonò nel silenzio della straducola, accompagnata da un coro melanconico di voci giovanili. «Agantine, povero usignolo», pensò Annessa, che nel dormiveglia cominciava già a sognare di Paolo, e al solito pensò con tenerezza e con rimorso al suo giovane fidanzato. Ma quando la voce tacque, ella si assopì ancora e di nuovo la figura di Paolo le tornò vicina. L'indomani mattina donna Rachele andò alla messa bassa e fece la comunione. E le altre donne anziane che erano in chiesa la videro piangere e pregare fervorosamente, tutta chiusa nel suo scialle nero come in un manto di dolore. Annessa invece andò con Rosa alla messa cantata delle 9. Col suo bel costume dalla gonna pieghettata e orlata di verde, il corsetto nero e rosso, il grembiule carico di ricami antichi, una benda gialla intorno al capo, ella rassomigliava ad una piccola Madonna primitiva, mentre al suo fianco la bimba deforme, goffamente vestita di un abituccio borghese di cotonina rossa, pareva la caricatura d'una civiltà degenerata. Dopo aver percorso la straducola in pendio, uscirono nella strada comunale che attraversa il paese e proseguirono verso la chiesa. La chiesa di San Basilio, sebbene questo fosse il santo protettore del paese, restava fuori dall'abitato, un centinaio di metri distante dall'ultima casupola nella quale abitava una parente dei De Cherchi. Un cortile vastissimo, roccioso, coperto di fieno e di stoppie calpestate, circondava la chiesetta, addossate alla quale sorgevano alcune stanze e una tettoia dove si riunivano le persone incaricate del buon andamento della festa. Vicino alla chiesa si innalzava una specie di torre quadrata con un rozzo belvedere al quale si saliva per una scaletta interna. La chiesa, le stanze, la torre d'una costruzione primitiva di pietre rozze e di fango avevano preso il colore cupo e rugginoso delle rocce circostanti. A sinistra della chiesa, ai piedi del villaggio, si sprofonda la vallata granitica, di là della quale un grandioso panorama di valli e montagne verdi e azzurre sfuma nel cielo chiarissimo, e a destra sorge il Monte San Giovanni coi suoi boschi, le brughiere, le rocce dai profili fantastici. 4 querce secolari crescevano davanti alla chiesa, la cui facciata, intraveduta tra i rami delle piante poderose, pareva tagliata nella roccia. Uomini alti e forti, vestiti di rosso e di nero, paesani di altri villaggi, pastori e contadini, s'aggruppavano intorno ai banchi dei liquoristi, sotto le tettoie di frasche addossate alle rocce della spianata. Era la solita folla delle feste sarde. Uomini allegri che pensavano a bere, donne in costume che andavano in chiesa per pregare e farsi vedere. Annessa e Rosa scesero lentamente il sentiero che va dalla strada comunale alla chiesa. Davanti alla casetta ultima del paese si fermarono a salutare zia Anna, la cugina di donna Rachele. Questa cugina era una donna anziana, alta, magra e pallida come un fantasma. Rassomigliava alquanto a donna Rachele, ma sosteneva d'essere più giovane e molto più bella della cugina nobile e raccontava d'aver avuto e di avere ancora molti adoratori e pretendenti che ella respingeva per restare libera e potersi dedicare tutta a 3 sue nipoti, orfane di padre e di madre. Queste nipoti, infatti, vivevano con lei ed una era già una ragazza da marito e zia Anna le amava come sue figliuole, poiché era una donna affettuosa ed anche savia, che all'infuori dell'idea fissa della sua bellezza e dei suoi pretendenti non aveva altra debolezza. Un cortiletto senza cancello, circondato da un muricciuolo, precedeva la casetta. Dalla porticina spalancata usciva un buon odore di caffè. Annessa gridò: «Zia Anna, non venite alla messa?» «Aspetto un ospite», disse la donna affacciandosi alla porta con una caffettiera in mano. «Rosa, anima mia, come sei bella oggi!» «Venite avanti, vi darò il caffè.» «Sei sempre vecchia, Rosa, i dentini non vogliono spuntare, no?» Rosa sorrise mostrando le sue gengive sguarnite e Annessa disse per conto della bimba: «Verranno di nuovo i dentini e poi cadranno ancora. Cadranno anche i vostri, zia Anna, e non ritorneranno più. Può darsi», rispose la donna che aveva bellissimi denti. «Ma venite, belle mie, vi darò il caffè. Per la messa è ancora presto. Ho veduto Prete Virdi spasseggiare davanti alla chiesa. Era con un signore che mi è sembrato Paolo». Allora Annessa, che stava per entrare da zia Anna, cambiò parere e si avviò verso la chiesa. «Addio, addio, statevi bene, tanti saluti alle ragazze, noi andiamo perché è tardi». «Avevo da raccontarti una cosa, verrò da voi domani», disse zia Anna salutando con la mano. «Addio, Rosa, non mangiare molto torrone, non mi hai detto neppure cosa ti ha dato il sorcio in cambio dei tuoi dentini». «Gliel'hai messi poi nel buco dietro la porta?» «Sì», gridò la bambina, «mi ha lasciato un po' di nocciole in cambio dei denti». «A che servivano le nocciole se non avevi denti per schiacciarle?» «E le ho schiacciate con una pietra. Addio, addio!» Annessa trascinava Rosa e camminava in fretta guardando fisso davanti a sé come affascinata. La bimba disse: «Sì, babbo è là davanti alla chiesa e passeggia con Prete Virdis che è arrabbiato». Infatti, il vecchio prete gesticolava animatamente. La sua grossa pancia ansava. Era bruttissimo, grosso e gonfio. Il viso color mattone, paffuto e rugoso nello stesso tempo, esprimeva un malcontento sdegnoso. Una parrucca dai lunghi peli che sulla nuca si mescolavano a qualche ciuffo argenteo di capelli veri accresceva quell'orrida bruttezza. Annessa abbassava gli occhi ogni volta che incontrava il prete e anche quella mattina tentò di passare dritta trascinandosi dietro la bimba, ma il vecchio sacerdote sollevò una delle sue grosse mani e cominciò a gridare: «Rosa, Rosa!» Annessa dovette fermarsi. «Rosa», disse il prete avanzandosi fino a coprire con la sua pancia il viso della bimba, «ho piacere che tu venga alla messa. A quanto pare ci vengono persino le capre oggi, persino le donne ebree e le donne moresche». Annessa andava raramente in chiesa, ma non si turbò per l'allusione. Guardava verso la spianata, fingendo di interessarsi al quadro variopinto che le si stendeva innanzi, e ascoltava i bandi che il messo, ritto sopra una roccia, gridava alla folla. Anche Paolo guardava laggiù. La figura del messo, alta e selvaggia, spiccava nera nel sole. Col suo tamburo scintillante, col suo costume, metà da paesano, metà da cacciatore, col suo berretto di pelo che pareva la capigliatura naturale di quella testa nera e forte. Il messo dava l'idea di un araldo primitivo sceso giù dai boschi della montagna per annunziare qualche cosa di terribile ai pacifici bevitori d'acquavite e di anisetta raccolti intorno ai furbi rivenditori della spianata. Tutti lo guardavano ed egli gridava con voce stentoria da predicatore: «Giovine e giovinette, andate a ritrarvi dal fotografo che abita presso il falegname Francesco Casu, e chi vuole orzo a 1,25 lire, corra dal signor Valentino Virdis, e presso Maria detta la Santissima si vendono uova fresche e sorbetti fatti col ghiaccio». «Sì, Anche le donne moresche, ripeté prete Virdis. Quelle che si alzano la mattina col diavolo e vanno a letto la sera col demonio. Va, va Rosa, prega per questa gente che si converta. Mi racconterai poi la storia del signore morto, la sai ancora? Sì, signore. Meno male, tu non sarai un'ebrea. Va, va, va. E riprese a camminare sbuffando. Paolo lo seguì, ma prima scambiò con Annessa uno sguardo rapido e ardente che la riempì di gioia. Angelo Santos, illa disse piano, con ironia, ripetendo l'intercalare favorito di prete Virdis. E la piccola Rosa, che amava poco il grosso prete, si mise a ridere col suo risolino triste di vecchietta. Annessa ascoltò la messa pensando a Paolo, al suo sguardo appassionato. Ella provava un senso di ebbrezza quando il vedovo le dava quei rapidi segni d'amore. Le pareva che uno sguardo scambiato così, di giorno, tra la gente che li separava come non avrebbe potuto separarli una muraglia di macigni, valesse più che tutti i loro abbracci notturni. E le parole pungenti di prete Virdis le sembravano un lontano rumore di vento. Uno sguardo di Paolo la ricompensava di ogni affronto e di ogni umiliazione. Dopo la messa egli l'attese sotto le querce e prese Rosa per mano. «Andiamo da quel venditore di torrone», disse a voce alta. Poi aggiunse piano. «Prete Virdis è arrabbiato con te perché non hai fatto la comunione. Ti ho scusata con lui dicendogli che avevi molto da fare. Egli non è cattivo, tutt'altro, è simile all'alveare». Brutto di apparenza, ma colmo di miele. Mi ha promesso di intercedere ancora per noi presso Ziuzua. Verrà oggi da noi, non essere scarbata con lui, ti prego. Se poi non si riesce a nulla con Ziuzua fra giorni, io vado al paese di Ballore Spano. Egli mi ha promesso di presentarmi ad una sua parente, sorella del rettore del suo paese, una vecchia danarosa che forse mi presterà qualche migliaia di lire. Vuoi bere un liquore, Annessa? Speriamo dunque, ella disse sospirando. Dov'è il tuo amico? Non lo so, ha promesso di venire a raggiungermi qui, rispose Paolo guardando intorno per la spianata. Intanto si erano avvicinati al banco del venditore di torrone. Gli uomini, dopo essere stati in chiesa, si affollavano di nuovo intorno ai liquoristi e non si contentavano di un solo bicchierino, ma compravano intere bottiglie di liquore che bevevano in compagnia degli amici e degli ospiti, fino all'ultima goccia. Quegli uomini vestiti di pelli, dai lunghi capelli unti, alti, rudi, come uomini primitivi, appena sbucati dalle foreste della montagna. Erano avidi di bevande alcoliche e dolci e si leccavano le labbra con voluttà infantile. Annessa accettò da Paolo un bicchierino di menta. Accorgendosi d'essere osservata da un gruppo di amici di Gantine, si mostrava triste e rigida, come del resto lo erano tutte le donne che in quel momento attraversavano il cortile della chiesa. D'un tratto si sentì presa per la vita da un braccio d'uomo e si vide accanto a sé il piccolo Ziu Castigu, vestito a nuovo, pulito, allegro come un fanciullo. «Come?» egli disse, tenendo Annessa abbracciata, ma rivolgendosi a Paolo. «Ve ne andate così senza far visita ai priori della festa? Le par ben fatto questo, piccolo Don Paolo mio? No, no, lei non vorrà offendere San Basilio andandosene senza visitare i priori. Io sono fra questi e ci tengo alla sua visita. Andiamo, Rosa Rosellina mia. Vuoi che Ziu Castigu ti prenda in braccio o sulle spalle, come un agnellino?» «Io devo andare a casa», protestò Annessa. «Donna Rachele mi aspetta. Tu verrai, Pili Brunda. Prenderò sulle spalle anche te se vuoi. Andiamo. Gantina è venuto da me stamattina per tempo e ha preso il cavallo per recarlo al pascolo. Non è ancora tornato?» «No, diventa sempre più poltrone quel giovine», disse Paolo. «Fa sempre il comodo suo». Sussurrò Ziu Castigu accennando ad Annessa. Ma ella non pareva molto preoccupata per le parole di Paolo. Aveva ripreso nella sua la mano di Rosa e ritornava verso la chiesa precedendo i due uomini. «Fra giorni voglio mandare Gantine in una lavorazione di scorza nella foresta di Lula», riprese il vedovo. Mi hanno offerto di tenerlo lassù fino al tempo delle seminagioni, così almeno guadagnerà qualche cosa. Eh sì, è un ragazzo molto allegro, convenne zio Castigo. Ma tutti siamo stati allegri da ragazzi. Tutti, sì, ripeté Paolo. Anche lei, sì, don Pauleddu mio, era molto allegro. Ora non più. Volati gli uccelli, disse Paolo guardando in alto e facendo un segno di addio con la mano. Volati, volati. Diavolo, qualcuno ne resterà, disse il pastore ridendo, col suo riso caratteristico, un po' sciocco, un po' beffardo. Ecco, passiamo di qui, entriamo nella cucina grande. Entrarono nella cucina grande, ove i promotori della festa preparavano un banchetto omerico. «Uè, miale corbo, eccoci qui!» gridò con orgoglio zio Castigo avanzandosi a fianco di Paolo. Il priore maggiore, cioè il presidente del comitato per le feste, parve sbucare da una nuvola di fumo denso e grasso che copriva come un velario lo sfondo della cucina. Ed era un uomo degno di essere circondato di nuvole come un dio selvaggio. Una specie di gigante, il viso d'un rosso terreo, dal naso aquilino, il mento sporgente, la barba rossiccia, ondulata, pareva scolpito nella creta. Sorrise quasi commosso, poiché Paolo de Cherchi onorava d'una sua visita quella riunione di pastori semplici e poveri. E condusse il giovine attraverso le cucine, le stanze, facendogli osservare ogni cosa come ad un forestiero. «Buona festa quest'anno?» domandò Paolo guardandosi intorno. «Non c'è male, siamo 50 promotori e altri 100 pastori hanno concorso alla festa portando ognuno una pecora e una misura di frumento. Nei grandi focolari ardevano tronchi interi di quercia e dentro i paiuoli di rame cuocevano intere pecore. Alcuni uomini seduti per terra, infocati in viso e con gli occhi lacrimosi per il fumo, facevano girare lentamente sopra le brace intere cosce di montone infilate in grossi spiedi di legno. Una quantità enorme di carne rosseggiava sulle panche disposte lungo le pareti. E nei recipienti di legno e di sughero fumavano ancora le viscere e qua e là s'ammucchiavano le pelli nere e giallastre delle 100 e più pecore scozzate per festeggiare degnamente il piccolo San Basilio, protettore di Barunei. Elisabetta Piccolomini ha letto L'Edera di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.